Il Signore Gesù ha dato la sua vita per salvare noi e ci ha lasciato delle ultime parole. Ne ha dette tante, tutte importanti. Ma le ultime, quelle che ci vengono riportate nel Vangelo di Matteo, sono particolarmente importanti perché sono appunto le ultime parole. E quello che ha detto è il seguente, quello che viene chiamato il grande mandato. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Signore, benedici questa parola oggi a noi, che possiamo avere dei cuori soffici, morbidi, malleabili, una mente attenta, che il tuo Spirito possa parlare e imprimere in profondità la tua parola nei nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen. Ora, un piccolo preambolo. Spesso i cristiani sono tacciati di essere fondamentalisti, di essere fanatici religiosi, persone che vogliono convincere tutti delle loro idee. E questo è un rischio che corriamo, perché nel DNA della fede cristiana c'è il compito e la responsabilità di raccontare ad altri quello che abbiamo vissuto. E non è un problema, semplicemente noi stiamo ubbidendo a quello che il nostro Signore ci ha indicato. Ovviamente dobbiamo essere attenti come lo facciamo, non vogliamo essere antipatici, non vogliamo essere noiosi, non vogliamo essere aggressivi, ma abbiamo una chiamata chiara di parlare, di testimoniare del nostro Signore. E in questo brano l'Evangelista riporta le parole di Gesù che ci parlano, e in grassetto lo vedete, di fare discepoli. Questo è il punto centrale di tutto questo brano, è il punto centrale di questo messaggio. Siamo chiamati a fare discepoli, e questa è una parola molto importante. È importante perché, come vedremo, rappresenta la parola discepolo l'essenza di quello che siamo chiamati a fare. E torneremo su questo più avanti, ma una cosa che io trovo sempre affascinante è che Gesù non sta dicendo fate convertiti, sta dicendo fate discepoli. E quindi dovremmo fare attenzione anche noi, quando presentiamo il Vangelo, cosa stiamo presentando, cosa stiamo chiedendo alle persone, di prendere il regalo che è la vita eterna, certo, ma la prospettiva deve essere molto più profonda, molto più ampia, c'è un discorso più importante. E questo grande mandato inizia, la prima fase parla di che Gesù ha ogni potere in cielo e sulla terra, ogni potere mi è stato dato. Il Signore Gesù nella sua opera terrena ha fatto qualcosa di ovviamente straordinario in tutti i sensi, e ora ha ogni potere, ha l'autorità suprema. Questa autorità è stata predetta, no? C'è il famoso brano di Daniele 7 dove si parla del figlio dell'uomo che avrà il dominio, avrà un regno eterno. Ora abbiamo questo re che si insiede sul suo trono e colpo di scena, cosa fa? Delega, manda altre persone, degli ambasciatori, come altrove la scrittura parla dei discepoli di Gesù. Ogni potere mi è stato dato, quindi io vi do a voi adesso la responsabilità e la possibilità di testimoniare, di andare avanti, di rappresentarmi fedelmente in questo mondo. L'idea di salvare il mondo non è nostra, è di Gesù. E Gesù ha mandato i suoi. Ovviamente queste parole erano rivolte agli apostoli. E sapete, la parola apostolo è equivalente alla parola missionario. E quindi ha mandato le persone, e ovviamente questo brano è chiarissimo dal contesto del Nuovo Testamento, non si applica solo ai dodici, ma a tutti i discepoli, discepoli che diventano a loro volta mandati da Cristo, delegati a fare cosa? E qui vediamo la prossima frase, andate dunque e fate miei discepoli, dunque, poiché io ho questa autorità adesso mando voi, e voi andate con la mia autorità. E cos'è che devono fare i discepoli? Devono andate, viene detto andate e fate i miei discepoli. Ora forse avrete sentito parlare varie volte su questo andate, che in realtà, e qui dico una cosa che non bisognerebbe mai dire la domenica mattina dal pulpito, grammatica, Ok? Dal livello grammaticale, in greco la parola andate non è un imperativo, è un participio. Quindi alcuni dicono in realtà non è andate, è andando fate i miei discepoli. Quindi mentre vivete la vostra vita siete chiamati a fare discepoli. Questo non è in sé per sé sbagliato, ma in realtà non è esattamente quello che dice il brano. Il brano dice qualcosa di importante. Dice che il focus è fare discepoli, ma non puoi fare discepoli se non ti muovi. Devi andare, potremmo dire andare a fare discepoli. E questo è uno stravolgimento completo nella teologia biblica. Perché fino a questo punto abbiamo Israele al centro del mondo, Israele era un faro, era la luce per le nazioni e tutti i popoli accorrevano a Gerusalemme perché c'era il Tempio, perché era il luogo speciale che Dio aveva scelto per rivelarsi su questa terra. E quindi c'era una terra santa con un popolo santo, c'era una città santa con un tempio santo che aveva un luogo santo e un luogo santissimo. C'era questa specie di cerchi concentrici che portavano al punto più speciale sulla terra dove Dio si manifestava in maniera particolare. Non era contenuto in quel luogo, ma era il luogo prescelto da Dio per manifestarsi. E il ruolo di Israele era di vivere la terra, praticare la fedeltà, vivere in maniera santa, come un faro per le nazioni, e i popoli sarebbero giunti lì. E abbiamo qualche traccia di questo, vero? Se pensiamo al re Salomone e la regina che andò a trovarlo, e più avanti nel Nuovo Testamento vediamo questo eunuco, no? Che va a Gerusalemme per adorare. Ovviamente il popolo di Israele ha fallito in molti modi ad essere una luce per le nazioni, ma il concetto era questo: Israele doveva vivere la terra. Servire fedelmente sarebbe stata una luce che brillava al mondo e le nazioni sarebbero giunte. E sappiamo in effetti che in vari modi questo è avvenuto, anche se abbiamo detto in maniera parziale. Ora, quando Gesù dice andate dunque e fate discepoli, sta invertendo l'ordine. E qui infatti vediamo che da Israele ci sono delle frecce che partono. E che vuol dire? Gesù sta cambiando, si dice, il paradigma missionario. Sta cambiando il modello, sta dicendo adesso voi non dovete stare fermi e aspettare che le persone vengano a voi. Voi dovete andare. Ora, questo andare non è necessariamente geografico, ma è, potremmo dire, relazionale, è di approccio. Noi abbiamo un messaggio da dare, gli apostoli avevano un messaggio da dare, e questo messaggio va comunicato, dobbiamo prendere l'iniziativa. Spesso diciamo, ma io voglio vivere una vita cristiana che onora il Signore, e poi la mia vita risplenderà della luce di Cristo. Vero, ma non ti fermare là. Il Vangelo è una buona notizia, la notizia va comunicata. E quindi sì, dobbiamo vivere una vita santa, questo rimane fermo anche per noi, ma dobbiamo comunicare, dobbiamo raccontare e dobbiamo cercare effettivamente le persone per raccontarglielo. E so che siete molto attivi in questa chiesa a livello globale, a livello locale, ma è buono ricordare queste verità, perché spesso diventano semplici routine. E quindi quando Gesù dice andate a fare discepoli, sta dicendo muovetevi. E poi vediamo in Atti come c'è un progresso, no? Da Gerusalemme, Giudea, Samaria e fino alle estremità della terra. E questa è un'ottima cosa. Gesù vuole che noi andiamo e facciamo discepoli. E qui c'è un altro termine sconvolgente per gli ebrei: tutti i popoli. Per gli ebrei questo era inconcepibile, anche se nell'Antico Testamento c'erano tracce di assiri, egiziani, varie nazioni che vengono a Dio, al Creatore, al Dio di Israele. Per un ebreo era un concetto incredibile, che i popoli sarebbero stati accolti. Gli apostoli, lo leggiamo negli Atti, ci hanno messo un po' a comprendere questa realtà. E tutti i popoli è un termine molto importante. È un termine molto importante. Sapete, c'è stato un congresso recentemente, a settembre, il quarto congresso di Losanna, che si è svolto in Corea. Io ho avuto l'opportunità, insieme ad altri italiani, di partecipare. E questo congresso di Losanna è il quarto. È il primo, ci fu 50 anni fa, a Losanna, ecco perché si chiama di Losanna, è un movimento di Losanna è nato, e nel 74 a Losanna ci fu questo primo congresso, e in questo primo congresso fu enfatizzata una cosa particolare, una cosa molto importante, Ma prima di arrivare a quello vi parlo un attimo di questo quarto congresso. È stato un congresso globale importantissimo, 5.394 partecipanti da oltre 200 nazioni, giusto per farvi capire l'ONU elenca 193 nazioni sulla Terra. Quindi vuol dire che c'erano tutti gli stati più tutti quei terreni o le zone dibattute o in conflitto. C'erano 2.000 partecipanti virtuali da 100 nazioni. C'erano durante il congresso, io l'ho scoperto poi, quasi 7.000 coreani, fratelli e sorelle coreani, che pregavano incessantemente per questo congresso. E sapete che quando i coreani pregano? 1.600 volontari e quasi 500 staff e altri volontari, e volontari coreani e internazionali. Quindi un evento veramente importante. Questa è la delegazione italiana, eravamo 20-25, e da varie denominazioni, è stato un momento molto bello. E il tema di questo congresso era che la Chiesa dichiari e manifesti o mostri Cristo insieme. È un incoraggiamento, anzi è un ordine, la Chiesa deve manifestare e dichiarare Cristo, lo deve fare insieme. E come frutto di questo congresso c'è stato il Seoul Statement, la dichiarazione di Seoul, che adesso è stata pubblicata su un cartaceo anche in italiano, c'è già digitale online, e questa è una dichiarazione meravigliosa. Lancio una sfida anche alla Chiesa, se non l'avete vista è un ottimo documento da studiare insieme. Il Vangelo è il primo tema che viene trattato, e poi si tratta della Bibbia. Uno dice: ma queste sono cose basilari, vero, ma come nello sport bisogna praticare i fondamentali, così nella fede cristiana. Non solo, perché il Vangelo ha una portata globale in tante zone del mondo, il Vangelo è una novità quasi, e bisogna aiutare le giovani chiese a essere istruite nel Vangelo e le chiese più vecchie a riscoprirlo. La centralità del Vangelo, della Bibbia e poi della Chiesa. Cos'è la Chiesa? Come vivere la Chiesa? E poi un altro aspetto importante è la persona umana. Questo è così fondamentale oggi, l'antropologia. Chi siamo noi come esseri umani? Tutti i grandi dibattiti che ci sono sul gender, sull'intelligenza artificiale, ci portano a dire: ma che vuol dire essere umano? Che vuol dire essere uomini e donne? E quindi una parte importante è stata dedicata a una riflessione teologica su questo. E poi il discepolato, un altro termine che viene preso per scontato, torneremo su questo più avanti, ma di fondamentale importanza. La famiglia delle nazioni, come vivere insieme varie realtà etniche, che impatto deve avere la Chiesa su questa nostra società? E poi la tecnologia, un aspetto che anche questo può essere sorprendente, ma in realtà è prevalente. Stamattina, se non ci fosse stata la tecnologia, sarebbe stato un altro culto. E quindi non solo per eventi come questi, diciamo dal vivo, ma tutto quello che c'è online, tutte le possibilità. Io penso che se l'Apostolo Paolo fosse in vita oggi, sfrutterebbe qualunque strumento tecnologico avesse a disposizione per proclamare il Vangelo, e quindi non dobbiamo essere da meno. E poi c'è stato un altro documento importantissimo, lo stato del grande mandato. Questo è un documento, quello di prima era abbastanza breve e agile, questo è molto grande, molto impegnativo, ma meraviglioso. A che punto siamo nella propagazione del Vangelo nel mondo oggi? Questa è la domanda. Quali sono le sfide, quali sono le opportunità, quali sono gli approcci che dovremmo avere? E tornando al discorso di tutti i popoli, nel 74 Ralph Winter, al primo congresso di Losanna, fece capire alla Chiesa che avevamo capito male questo termine. Le persone, i credenti all'epoca, pensavano spesso a tutte le nazioni, dobbiamo avere il Vangelo in tutte le nazioni. E Ralph Winter disse: no, attenzione, tutti i popoli, non sta parlando di nazioni, sta parlando di gruppi etnici. E così c'è questa definizione, che viene dal Joshua Project, che dice che ai fini dell'evangelizzazione un popolo, gruppo di persone o etnie, è il gruppo più ampio all'interno del quale il Vangelo può diffondersi come movimento di fondazione di chiese senza incontrare barriere di comprensione o accettazione. Che vuol dire? Vuol dire che il gruppo di persone si può definire a fini missiologici come quel gruppo di persone all'interno del quale ci si capisce. Ok? Si parla la stessa lingua e si ha la stessa cultura. Immaginatevi l'Italia, ci capiamo tutti in Italia. Abbiamo la stessa cultura in Italia? Insomma, immaginiamoci un missionario baldanzoso dal Sud Tirol che decide di andare in Sicilia a evangelizzare. Ridiamo perché sappiamo già quello che succederà. Un paesino della Sicilia, il tirolese, non è proprio della stessa cultura. Sì, si parla la stessa lingua, più o meno, E quindi ai fini missiologici è importante che un popolo si può dire raggiunto quando c'è una presenza di una chiesa che è in grado di essere luce per tutto il popolo. E così abbiamo quest'altra definizione, popolo non raggiunto. Un popolo di persone tra le quali non c'è una comunità indigena di cristiani credenti con numeri e risorse adeguate per evangelizzare il suo gruppo di persone senza assistenza esterna. Che vuol dire questo? Vuol dire che c'è un popolo che ha, se ha dei credenti, sono pochi e non riescono a essere una luce per il loro popolo, senza l'aiuto di qualcuno che da fuori viene, i famosi missionari. Ok? Ora, come definiamo quando un popolo è raggiunto o no? E qua ci sono dei ragionamenti dietro e c'è un indice che ci aiuta a capire. Quando ci sono meno del 2% di evangelici in un popolo e meno del 5% di cristiani aderenti, cristiani nominali di qualunque tipo di sorta. E quindi questo è un indice che aiuta i missiologi a dire ok, questo popolo ce la fa da solo più o meno, questo popolo ha bisogno di aiuto. Questo popolo non ha nessuno e se non andiamo non scopriranno mai di Gesù. E così questo aiuta, e al mondo ci sono circa 7.200 popoli e non raggiunti sono circa 3 miliardi e 400 di persone. Scusate, 3 miliardi e 400 milioni di persone. Queste sono non raggiunte, vuol dire che al loro interno non hanno risorse sufficienti per evangelizzare il resto del popolo. Ora, fra questi 3 miliardi e 400 milioni di persone ci sono anche altri che sono messi peggio. E spesso noi parliamo della seconda venuta del Signore, no? Si fanno conferenze sull'escatologia, su quando tornerà Gesù, sull'Apocalisse. Metà del mondo non ha mai sentito parlare della prima. E questo è un compito di chi? Gli americani ci devono pensare? Gli inglesi, gli svizzeri, i tedeschi? Questo è un compito che riguarda tutta la Chiesa. E un famoso slogan di Losanna è: tutta la Chiesa deve portare tutto il Vangelo a tutto il mondo. E noi siamo parte di questa Chiesa. Ma voglio incoraggiarvi, negli ultimi anni c'è stata un'impennata enorme nell'evangelizzazione e nel raggiungere i popoli non raggiunti. Questo diagramma è stato presentato proprio al congresso e dal 1974, da quel primo congresso di Losanna, negli ultimi 50 anni c'è stata una crescita mai sperimentata nella storia della Chiesa. Molti popoli hanno ascoltato e ricevuto il Vangelo come non mai nella storia. E quello che mi dice questa statistica è che è possibile adempiere al grande mandato. La Chiesa globale può farlo. Ora siamo arrivati al punto tale che tre quarti del mondo ha qualche testimonianza, ma c'è ancora un quarto, che vuol dire 2 miliardi di persone, che sono praticamente senza cristiani. 2 miliardi di persone che appartengono a gruppi etnici dove forse non hanno mai sentito parlare del nome di Gesù e non conoscono altri credenti. Non hanno la scrittura disponibile, a volte c'è nella loro lingua, ma è illegale. Non è fattibile leggerla e conoscerla. E quindi che fare? E per farci capire meglio che vuol dire 2 miliardi senza cristiani, vuol dire che se le cose vanno bene, c'è qualcosina. E quest'altro grafico a cerchi concentrici ci aiuta a capire, questo è in inglese ma è molto dettagliato, ma guardiamo la figura, i cerchi. Il verde sono i popoli raggiunti, i popoli che hanno una chiesa che riesce a saturare in qualche modo il proprio popolo col Vangelo. Non vuol dire che tutti hanno creduto in quel popolo, ma ce la fanno a essere una luce per tutti. Noi italiani ci qualifichiamo appena in questa categoria. Ok? In effetti, se ci pensate, la Bibbia è disponibile in italiano? Quante traduzioni ci sono? Stanno aumentando, grazie a Dio. Ci sono chiese evangeliche? Certo. Anche se non c'è una chiesa evangelica, c'è la possibilità di capire chi è Gesù? Ci sono Bibbie, si va online, c'è l'opportunità. Ci sono popoli dove questo non è possibile. E così abbiamo questi popoli in rosso che sono non raggiunti, non hanno, se c'è una chiesa, la forza sufficiente di raggiungere tutti gli altri. E poi ci sono quelli in rosso scuro, che sono di frontiera, vengono chiamati, perché? Perché non hanno neanche una chiesa. Forse c'è qualche missionario, forse c'è qualcuno che sta operando, ma non c'è una chiesa, diremmo, autoctona, indigena. E all'interno di questi ci sono quelli più grandi, si parla di 300 gruppi che sono di grande popolazione, che non hanno ricevuto il Vangelo. E sapete qual è il gruppo più grande al mondo? Non raggiunto di frontiera, sono i bengalesi musulmani. Ora non so com'è qui a Modugno, ma a Roma è pieno di bengalesi. E spesso pensiamo ai gruppi etnici come un problema politico-sociale. Ok, c'è una dinamica sociale e politica, ma noi come credenti dovremmo dire: il Signore ci ha portato qui persone che non hanno la possibilità di ascoltare il Vangelo nella loro nazione. Che opportunità dobbiamo darci da fare. E questa è una rappresentazione grafica di che vuol dire essere un popolo di frontiera. Se va bene, c'è un credente su 1000. Se va bene. Hanno bisogno del nostro aiuto. E così il grande mandato ci dice di andare a fare discepoli tutti i popoli, inclusi questi, lontani o vicini. E ci dice di battezzarli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il battesimo qui rappresenta l'ingresso nella fede. Come si diventa discepoli. Il battesimo chiude, no? Il cerchio della conversione, potremmo dire, con una manifestazione pubblica di fede in Cristo. Il Signore ci ha dato questo atto concreto, fisico, per rappresentare la realtà spirituale che avviene nel cuore di una persona quando crede in Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il nostro Dio Trino, l'unico Dio che esiste. E quindi battezziamo nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo e introduciamo il percorso del discepolo in questo modo. E infatti la parte seguente va avanti, dice, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Spesso noi diciamo insegnando tutte le cose che vi ho comandate. Dobbiamo dire tante informazioni. Quando una persona si converte, adesso bisogna studiare la Bibbia, ma qua Gesù non va soltanto sulle nozioni, vero? Sta dicendo insegnando a osservare, molto più difficile. Una sfida che non finisce mai. Io posso imparare tante nozioni sulla Bibbia, ma le devo vivere. Il discepolo è un apprendista che impara a imitare Cristo, facendo quello che dice. Finché non lo fai, non lo sai. E quindi c'è la necessità di accompagnare i credenti. Il movimento di Losanna in realtà si è accorta che negli ultimi 50 anni l'evangelizzazione è andata a 1000, ma la cura, l'insegnamento nelle chiese spesso non è stato con l'intensità giusta. E così si creano tantissimi problemi nelle chiese, tantissimi movimenti, se non eretici, quasi eretici. Perché? Perché mancano le basi biblico-teologiche. Bisogna imparare e bisogna fare quello che abbiamo imparato. E questa sfida ci mette tutti bisognosi dell'ultima frase, che è, saltiamo un paio di diapositive, ecco, io sono con voi tutti i giorni. Di fronte a questo mandato ci potremmo sentire miseri, piccoli, di fronte all'idea di osservare tutto quello che dice Cristo, con grande difficoltà, ma non siamo soli, l'abbiamo cantato anche stamattina, non siamo soli, il Signore è con noi, anzi se non fosse per la tua presenza sarebbe tutto impossibile, ma Lui non ci ha lasciati da soli, è con noi, il suo Spirito è con noi e ci sostiene, ci abilita a fare questo, ci crediamo? Crediamo che il Signore ci aiuta ed è difficile ed è a volte 3 passi avanti, 2 passi indietro. E i pastori, i counselor qui presenti lo sanno molto bene che non è una crescita lineare, ma è possibile crescere. E il Signore ci aiuta, ci fa crescere e ci permette di essere luce per coloro che sono lontani. E vorrei lanciarvi una sfida, e so che questa chiesa sfonda una porta aperta. Adotta un popolo non raggiunto. Ok, quindi se ripeto quello che avete già sentito, ho la benedizione del pastore che posso ripetere. Quindi, che vuol dire adottare un popolo non raggiunto? Ci sono tanti popoli e sinceramente dire 2 miliardi di persone, da dove cominciamo? Come facciamo a raggiungere tutte queste persone? Beh, innanzitutto non è la missione solo della Chiesa Pieno Vangelo Modugno, è della Chiesa globale. Allora, che ruolo può svolgere una Chiesa locale? E la cosa che io trovo più semplice è di partire con un popolo. Un popolo che non ha ancora una chiesa che è autosufficiente per poter raggiungere il resto della popolazione. E come possiamo adottare un popolo non raggiunto? Bisogna informarsi. Qua abbiamo Abbraccia un Popolo, questa meravigliosa risorsa messa a disposizione da Frontiers, dove possiamo iniziare a conoscere e a pregare, perché l'informazione poi porta subito alla preghiera. Informati e prega, prega che il Signore operi, prega che il Signore mandi missionari, prega che il Signore si riveli, e il Signore lo sta facendo. E questo penso l'avete sentito, il Signore sta operando dove la Chiesa ancora non è arrivata. E si stanno quasi aspettando che qualcuno vada a raccontargli il Vangelo. E quindi dobbiamo pregare e dobbiamo sostenere chi si sta impegnando in questa direzione. Sostenere in preghiera e sostenere economicamente, perché serve tempo per andare a raccontare di Gesù. I missionari non sono quelli che non trovano lavoro e allora dicono ma sì, mi faccio sostenere. Sono quelli che vogliono il tempo per poter andare e raccontare di Gesù e hanno bisogno del sostegno. E poi si può visitare in tante occasioni, non possiamo andare ovunque nel mondo purtroppo, ma in molti posti sì, possiamo andare a visitare e apriamo gli occhi sulla realtà locale. Quando vediamo una persona non italiana, che spesso di nuovo vediamo come un problema, in realtà noi dobbiamo vederla come una grande opportunità, perché magari questa persona proviene da un popolo non raggiunto, non ha mai sentito parlare di Gesù, e se si converte diventa il miglior missionario poi per raggiungere i suoi. E ci sono storie come questa. Visita e poi vai. E di nuovo, qui sfondo una porta aperta. Andate in missione, andate a sperimentare con Frontiers o con tante altre missioni che esistono e provate a vedere come si fa. I nostri studenti sono andati in Macedonia quest'anno, alla frontiera con l'Albania, e lì hanno incontrato gli albanesi che vivono in Macedonia, che sono un popolo non raggiunto, musulmani, e hanno visto delle cose meravigliose lì, come il Signore ha anche operato in quei giorni. E quindi bisogna andare. In conclusione, qui vedete alcune diapositive di alcune missioni, fra i quali appunto Frontiers, WEC Italia, Associazione Italiana Traduttori per la Bibbia, Ethnos e anche Porte Aperte, perché fa parte di questo tipo di missione. E poi c'è un'app, non so se la conoscete, Five Fish. Avete mai visto o sentito parlare di questa app? Questa app ha il Vangelo in circa 6.000 lingue e passa. Praticamente in qualunque lingua al mondo, o quasi, c'è la possibilità di condividere il Vangelo. Quindi scaricatevela questa sul cellulare, mettetela a disposizione, imparate a usarla, incontrate qualcuno e dice posso darti un messaggio nella tua lingua? Questo è un messaggio meraviglioso, è un messaggio che viene da Dio. E potete raggiungere una persona che vive in terra straniera con un messaggio nella propria lingua. Ci sono poi, c'è un'app di preghiera e poi c'è tutto il movimento di Losanna col quale vi incoraggio a familiarizzare, che è pieno di risorse. Il grande mandato ci dice di fare discepoli. Sono le ultime parole di Gesù. E una cosa è certa, a differenza di come ha detto il soldato Ryan, non potremo mai meritarci quello che Cristo ha fatto per noi. Non saremo mai in grado di meritarcelo, ma una cosa possiamo fare, possiamo onorarlo. Possiamo onorare quello che Cristo ha fatto per noi con una vita di discepoli che fanno discepoli. Una vita impegnata localmente e globalmente. È una tensione che si può vivere, si può sperimentare. E per questo abbiamo bisogno di una visione, di un desiderio di raggiungere questa visione e poi della potenza del Signore che opera in noi. Abbiamo sentito stamattina la potenza della resurrezione a disposizione nostra e dobbiamo dipendere da questa e chiedere al Signore di operare. Quindi ti lancio una sfida a livello individuale: cosa stai facendo te per adempiere al grande mandato, non solo a livello locale ma globale? E come Chiesa vi incoraggio ad andare avanti con forza nell'adempiere questa missione, nel raggiungere i non raggiunti. Preghiamo. Signore Gesù, grazie per quello che ci hai dato, grazie per la tua presenza in noi. Signore, tu hai permesso che noi potessimo essere tuoi apprendisti, tuoi imitatori, tuoi discepoli. Non solo, ma tu hai permesso e ci hai delegato della responsabilità di raccontare questo ad altri. Oh Signore, che tu possa guidarci con la tua potenza, per il tuo spirito, che possiamo essere questa luce intenzionale verso il mondo che ci circonda. Grazie che abbiamo un messaggio che è una bella notizia, un messaggio di vita, di speranza, di gioia, di pace, di libertà. Signore, aiutaci a godere di questo Vangelo e traboccare con amore e con gioia verso il mondo che ci circonda. Signore, se non operi te, noi non possiamo farlo, ma grazie che tu vuoi e quindi possiamo. Ci affidiamo a te, ancora una volta, nel tuo nome. Amen.